Cari amiche, cari amici, Radio Alma brussellando, è martedì sera, sono le 21, siete in compagnia di Maridì e finalmente, nuovamente qui con noi, Georges Laurent, Fiordaliso e bene, il gruppo è riunito, finalmente. È finalmente riunite. È finalmente Ha riunito un perché bellissimo siamo gruppo. stati un po' divisi ultimamente dalle distanze, Eh sì. quelle geografiche, e quindi ci ritroviamo qui per la prima puntata insieme del 2010. Prima di dare avvio a questa puntata che si prospetta abbastanza interessante perché l'ospite di questa sera, come vedete, è di straordinario spessore culturale, vorrei insomma questa sera farvi notare due cose. Uno è che non abbiamo un tappeto musicale, quello che siamo abituati ad ascoltare, anzi ne abbiamo diversi in realtà. Abbiamo un tappeto che introduce Me e Georges, abbiamo un tappeto musicale che introduce Fiordaliso, ne abbiamo un altro invece quando Georges si trova per esempio a leggere spezzoni di un libro oppure una poesia. A quanto pare, tutto ciò che è stato uno dei nostri punti di forza, uno dei requisiti che ha permesso a Brussellando di sopravvivere, diciamolo molto onestamente, in questi ultimi 3 anni, e cioè il podcasting, si rivela un attimo minacciato. Minacciato, mi dispiace usare anche questa parola, perché a quanto pare c'è qualcuno che vorrebbe, dopo, a fronte di quello che è il nostro impegno, mensile, settimanale, a volte anche quotidiano, perché comunque una puntata, preparare una puntata quando c'è un ospite che ha scritto un libro, quando c'è un poeta che ci fa avere una raccolta, richiede comunque tempo, richiede raccolta di informazioni, richiede insomma un'analisi anche un po' più approfondita dei testi che ci vengono proposti. E questo da un lato. Dall'altro, come voi sapete, noi autofinanziamo tutte le nostre telefonate, acquistiamo delle schedine telefoniche internazionali proprio per non gravare ancora ulteriormente su quello che può essere poi il ruolo stesso della radio. Terzo, e questo è un elemento abbastanza importante, che ogni canzone che vi è stata proposta è stata acquistata sempre dai sottoscritti affinché potesse essere riprodotta, come sapete, nemmeno poi integralmente, in studio e poi sul podcasting, facendo sempre attenzione che la durata comunque di una canzone fosse di 30 secondi, un minuto e 30. Le nostre puntate, come avrete notato, purtroppo da qualche settimana non si ritrovano più in podcasting. Ho preferito nemmeno fare la descrizione perché ero un attimo avvilita. Un programma come il nostro, che ha come grosso obiettivo quello dell'universalità, scusatemi se in questo siamo sempre stati ambiziosi sin dall'inizio. È un programma che si pone di non aver confini, di poter trasmettere un messaggio che vada al di là della fisicità di Bruxelles, che quindi possa essere ascoltato poi in differita nel mondo, perché sono tanti coloro i quali ci ascoltano di lingua italiana o che desiderano apprendere la nostra lingua, e questa nostra possibilità purtroppo oggi si vede ridimensionata. Ci è stato chiesto quindi di scegliere. Abbiamo due scelte. Una è quella di continuare con quello che è il modello precedente, ma allora non si potrà più ritrasmettere in podcasting. Due, continuare a coltivare quelle che sono le nostre relazioni con i nostri contatti, con i nostri amici, con i nostri conoscenti, a patto che non vi siano musiche o comunque non vi sia del sonoro. Noi stiamo cercando ovviamente in questo la radio con noi, tutta la direzione, ringrazio tutti coloro i quali stanno lavorando a questo dossier che ha assunto anche dimensioni grosso modo grottesche, ci impegneremo affinché questo problema possa essere prontamente risolto. Intanto ci scusiamo se questa sera il formato sarà lievemente inusuale, martedì scorso avrete notato non siamo andati in onda per protesta perché ancora praticamente 2 settimane fa sembrava addirittura improbabile poter riprodurre solo le nostre voci. Noi che facciamo qui un servizio comunque di volontari, all'inizio ci hanno detto no, nemmeno il podcasting delle vostre voci si può riprodurre. Poi per fortuna qualcuno da qualche parte, qualche legge la legge, scusate anche il bisticcio di parole, ma è voluto, e ci siamo resi conto che in realtà forse poter ascoltare George leggere o poter ascoltare il Librangolo o le nostre interviste settimanali possiamo ancora continuare a farlo. Ci dispiace ovviamente perché pensavamo di aver introdotto un formato, pensavamo di aver lanciato tutto sommato un modello, noi non siamo nemmeno i più penalizzati, penso a chi invece ha un programma prettamente sonoro, chi ha piacere di condividere la propria passione per la musica, che vorrebbe far conoscere anche artisti, autori, perché diciamocela tutta, non tutti hanno la fortuna di essere famosi e universalmente, c'è chi quel cammino lo deve ancora fare. Quindi, scusateci, quindi questa sera da parte nostra c'è l'impegno, Giorgio, spero condivida se vuoi aggiungere e completare questo messaggio, ovviamente, ne sono ben felice. Continueremo il nostro impegno, continueremo ad offrirvi un servizio, di qualità. Abbiamo tante novità, questa sera, introduciamo tra l'altro la prima, puntata di questa nuova serie chiamata La Penna del Diplomatico e cercheremo insomma di continuare proprio sui contenuti, rinunciando un po' alla musica, perché forse l'avrete capito, ma tutte le colonne sonore e ogni brano musicale è sempre stato accuratamente scelto e anche in rapporto con il tema della serata. Nell'edizione 2010 abbiamo voluto essere un attimo più flessibili, quindi in questa terza edizione abbiamo voluto un po' privilegiare più la fantasia di ciascuno di noi, piuttosto che radicarci in un argomento così come era stato nei 2 anni precedenti. Però, come sapete, ciascuna arte è bella proprio perché la si può migliorare, le jour, quindi giorno dopo giorno. E grazie anche ai suggerimenti che sono venuti, ai commenti, a tutto quello che poi la rete che Bruxelles Land ha creato, da cui, come sapete, è nata la tela sonora, è nato jazz e dintorni. Quindi da un lato siamo molto fieri ed orgogliosi del nostro lavoro, dall'altro siamo un po' rammaricati di non potervi più offrire quello che eravamo abituati a fare finora. Comunque, insomma, siamo qui, George, tu che sei un esperto più di me di tante questioni giuridiche. E beh, io devo pagare la mia anima leguleia, insomma, sono leguleio e vabbè. Allora, da un lato mi verrebbe da dire che comprendo la norma, perché ormai è scritta e quindi comprendo anche quello che ci sta dietro, tuttavia non condivido, comprendo ma non condivido. Lo condivido soprattutto nei confronti di piccole radio come la nostra, che appunto, come diceva benissimo Marilena, è fatto soprattutto di volontari, cioè di persone che credono in quello che fanno e che cercano di dare anche un servizio ovviamente gratuito. Beh, ecco, noi non stiamo sfruttando le musiche, non stiamo facendo dei programmi in cui la musica, come so, può dare un ritorno economico, no, è semplicemente un momento per ascoltare insieme la musica, una pausa fra un'intervista e un'altra, una comunicazione e un'altra, e quindi credo che veramente questo sia eccessivo. Cioè, questa lettura della norma mi sembra è veramente eccessiva e controproducente. Se un paese libero, e oso spingermi fino a questo punto, se un paese libero, beh, deve anche riconoscere un certo spazio. Da Leguleio io vedo anche un disegno dietro, più grande di quello che stiamo semplicemente analizzando adesso. Non è il caso di farlo adesso, però forse in un futuro faremo anche magari una puntata, ma questo sarà a livello di radio, un ragionamento un po' più ampio, però insomma in questo momento io mi sento di appoggiare assolutamente quello che hai detto, Mary, anzi lo appoggio, lo condivido e spero di trovare anche altre persone che come noi condividono questa nostra protesta. Nel frattempo cercheremo anche noi di trovare, visto che qualcuno usa la norma e la legge, di trovare tra le pieghe della legge un modo per sopravvivere e ridargli il servizio che avevamo, anzi di migliorarlo, perché non solo noi rivogliamo il nostro podcast come era prima, ma ve lo dico, vogliamo anche lo streaming. Speriamo bene perché tanto bolle in pentola anche da questo punto di vista. E chissà che nel cercare di trovare una soluzione alla norma, i signori della truffa dell'ambasciatore Domenico Vecchioni non possono poi fornirci, chissà, il guizzo geniale per soddisfare le nostre esigenze e quelle, di questo organo di vigilanza e controllo. Ambasciatore Vecchioni. Buonasera, Buonasera, benvenuto a Bruxellando, a Radio Alma. È con estremo grazie, piacere che l'accogliamo sulle nostre frequenze, in compagnia di Marie D, di Georges Laurent e di Fiordaliso, e ha appena parlato con il nostro regista Dani M. sì, Allora, piacere mio. Può sentire la mia voce? Sì, la sento bene. Perfetto. Allora, abbiamo iniziato a parlare di questo suo straordinario libro, I Signori della Truffa, che reca poi L'uomo che vendette la Torre Eiffel e altre incredibili storie di impostura come sottotitolo al titolo principale. Allora, prima di passare ai contenuti, perché sono tante le storie che lei ha avuto diciamo la pazienza di raccogliere e di catalogare insieme in questo straordinario carnet di personaggi estremamente geniali e sicuramente intelligenti ed audaci, potrebbe un po' raccontarci del suo percorso di scrittore? Ma sì, guardi, come tutti i diplomatici, io ho sempre avuto una così particolare abitudine nello scrivere. Il lavoro dei diplomatici credo che in qualche modo sia molto simile a quello dei, per esempio, dei giornalisti, perché il diplomatico in sostanza che deve fare? Deve osservare, no, la realtà dove si trova, valutarla e soprattutto poi riferire a Roma e quindi scrivere. A volte nelle grandi ambasciate, ad esempio, o nelle grandi direzioni generali, gli staff meeting, le riunioni settimanali che si fanno somigliano spesso a dei comitati di redazione, perché l'ambasciatore può chiedere ai propri collaboratori, il direttore generale chiede ad ognuno: tu mi fai un messaggio su questo argomento, tu su quest'altro, e non si chiamano articoli, si chiamano messaggi, ma voglio dire, c'è questa abitudine nel riferire, quindi nello scrivere, che poi per qualcuno di noi si potrà anche al di fuori dell'attività istituzionale, quindi continua anche a casa, magari a seconda poi delle particolari inclinazioni di ciascuno. Oh, perché io sono rimasta veramente sorpresa, insieme esterrefatta, di tutte le cose che lei ha scritto, prima di parlare poi dei Signori della Truffa, perché poi i Signori della Truffa rappresentano, se ho ben capito, la sua ultima fatica. Sì. Perché ha pubblicato effettivamente Il Canale di Beagle, Le Falkland Malvine, La Flotta Tudor, quindi cose anche abbastanza storiche, quindi questo lo posso immaginare. Poi ha dedicato ampio spazio, per esempio, alle spie. Esattamente. E diciamo che questa è la prima così opera veramente così di... Per me è stato un piacere realmente scrivere queste storie, mi sono divertito io stesso nello scoprirle, nel leggerle e nello scriverle, perché effettivamente finora avrà visto, no, sono stati studi collegati un po' anche alle sedi che ho fatto. Io sono stato in Argentina, quindi il periodo argentino, il Canale di Beagle, le Falkland, Evita Perón. Sono stato a Strasburgo, al Consiglio d'Europa, e lì, ecco, mi sono interessato, diciamo, alle problematiche dei diritti dell'uomo, quindi a Raoul Wallenberg, Viktor Kravchenko. Sono stato a Bruxelles, alla NATO, mi fa piacere, vorrei inviare un saluto a tutti gli italiani di Bruxelles, città che ricordo sempre con... realmente con molta nostalgia. Ho passato 4 anni a Bruxelles, nel quartier generale di Ever, alla NATO, e poi sono stato per diversi anni ispettore degli uffici all'estero, e lì è nata un po' la passione per un certo tipo di storie, di spie, diciamo. Quindi poco a poco sono arrivato un po' a immaginare di scrivere una storia dello spionaggio, però sempre con uno stile molto non accademico, non didattico, ma molto leggero, molto, e soprattutto attraverso i singoli personaggi, le singole spie, quindi una storia dello spionaggio attraverso questi personaggi. E poi finalmente tra personaggi dal destino straordinario mi sono imbattuto nei truffatori. Però questo libro, contrariamente agli altri, è realmente un libro, come dire, da leggere. Può sembrare strano, no, dire un libro da leggere, però è vero che ci sono spesso dei libri che si comprano e non si leggono, no? Che vanno poi al mare, delle biblioteche, delle librerie. Ci sono dei libri che si comprano e si sfogliano un po' qua e là, poi si mettono da parte, si dice quando avrò tempo lo leggerò. E poi ci sono i libri che si leggono con piacere proprio, siamo contenti, no? Magari alla fine di una giornata di lavoro di ritrovare il nostro libro preferito. E l'ambizione di questo libro è realmente quella di essere letto con interesse e con piacere, spero. E quando qualcuno mi dice ho letto il tuo libro, mi sono divertito tanto, ecco, questa è la mia più grande soddisfazione. Ma io posso confermare, l'ho letto in due sere, veramente tutto d'un fiato. Un po' perché avevo, tra virgolette, ci tenevo insomma ad intervistarla con conoscenza di causa, quindi avere una visione completa, diciamo, di tutte le storie raccontate. Un po' perché è appassionante, perché c'è una carellata poi di personaggi così vicini al genio, così estremamente audaci, che la lettura in realtà, non nascondo, è scorsa proprio velocemente e rapidamente. E poi vedere tutti questi personaggi insieme, quasi quasi avevo paventato l'ipotesi e pensavo, immaginavo anche ad un film. E immaginavo come, se fosse possibile magari anche una versione cinematografica, sarebbe straordinario, credo anche esilarante, in tempi in cui a volte ci negano anche il divertimento, raccontare di personaggi così lontani, molti di loro nemmeno tanto, ma alcuni sicuramente, credo possa essere un momento davvero piacevole di distrazione per ogni, diciamo, tipo di pubblico, dal bambino che magari può identificarsi in più in personaggi più vicini al cartone animato, agli adulti che invece ne traggono notevole ispirazione. Sì, sì, la ringrazio, ma effettivamente alcune di queste storie hanno già ispirato il cinema. Sì, perché, sì. Per esempio, l'uomo che vendette la Torre Eiffel è stato un film addirittura di Chabrol, di Claude Chabrol. Sì, sì, sì, sì. Stravinsky, celebre film, no? Se lo ricorderà, con Jean-Paul Belmondo. Con Jean-Paul Belmondo, sì, del 63, credo. Dire, molti di degli anni 60, di queste storie, io ho voluto all'inizio chiarire che effettivamente si tratta di storie vere, perché a volte sembrano talmente inverosimili che c'è da dubitare che siano realmente accadute, ma invece no. Sono storie vere e appunto quando effettivamente è la realtà veramente che imita la fantasia, no? Come dico nel sì, titolo, non esatto. Il contrario, parafrasando Oscar Wilde, no? Che diceva la vita imita l'arte più di quanto l'arte non imiti la vita, è un po' quello che succede per le truffe per quanto riguarda realtà e fantasia, perché alcune sono alcune addirittura veramente sorprendenti. Non so se le ricorda quella, non so, ieri proprio ho visto il film Sherlock Holmes. Sì. E appunto mi sono ricordato di questa storia di Conan Doyle, quindi il papà di Sherlock Holmes. Sì, sì. Sherlock Holmes, che è il detective più diciamo razionale della storia letteraria, no? Tutto per lui era deduzione, e quindi il suo creatore si fa convincere dell'esistenza delle fate da due ragazzine di 14 e 8 anni che scattano delle fotografie truccate naturalmente, che però per loro attestavano l'esistenza delle fate. Le buone fatine di Cottingley. Ci scriverà anche un libro bello, tra l'altro, famoso, sulle fate. Quindi sono storie assolutamente sorprendenti. Sì, sì, questo sta descrivendo Le buone fatine di Cottingley. Questo è il titolo che ha attribuito poi alla storia di Doyle. A me, tra l'altro, veniva spontanea una domanda. Qual è stato il salto per il quale ha deciso di non occuparsi più di spie, forse perché effettivamente li ha raccontate un po' in tutte le fasi storiche, e di soffermarsi invece su questa categoria così particolare, cioè quella dei truffatori? Ma sì, sono però in un certo senso la linea forse è sempre quella, no? Il gusto di raccontare storie fuori del comune, diciamo. Allora, nelle spie... E in un certo senso c'è un qualche collegamento, perché le spie sono dei truffatori in un certo senso, no? E nel libro riporto anche una storia che può essere considerata anche una spy story, no? L'invasione della in Polonia della supposta invasione della Germania, esatto, nel 39, sì. L'operazione Himmler, esatto, una truffa in un certo senso, un'operazione di intelligence, quindi a volte le storie si confondono, perché anche quella, vabbè, è conosciuta, è storica, però non molti appunto ricordano che la seconda guerra mondiale, tecnicamente, perlomeno per qualche giorno, i giornali riportarono la notizia che era stata la Polonia ad attaccare la Germania, e la Germania si era dovuta difendere e quindi aveva a sua volta invaso la Polonia. Invece era stata tutta un'operazione dei servizi segreti nazisti, che avevano finto un assalto da parte polacca in una piccola cittadina di frontiera. E quindi credo che, diciamo, la direzione è sempre la stessa, cioè il gusto di raccontare delle cose magari anche conosciute, perché certo, queste storie che racconto sono riportate in testi, ci sono delle memorie, però, diciamo, a me piace raccontarle a modo mio, ecco. Il fatto che lei mi dica che ha potuto leggere il libro con tanta facilità e divertimento, e ecco, questo mi fa molto piacere. No, assolutamente, l'ho trovato innanzitutto a uno stile di scrittura molto semplice, il che avvicina comunque ogni tipo di lettore e rende la lettura sicuramente più scorrevole e piacevole. Poi ci sono molti aneddoti storici, come già ricordato nell'introduzione, da Carlo I di re della Nuova Francia, Otto I re di Albania, quindi ci sono anche, diciamo, queste vicende storiche che molto mi hanno incuriosito. E poi altre di cui ovviamente ignoravo proprio l'esistenza, e mi ha anche molto colpito la bibliografia, che poi si ritrova alla fine del testo, che effettivamente dimostra poi questa ricca, diciamo nuovamente, bibliografia in merito al tema. Diciamo che ogni storia ha un suo testo base, diciamo, per cui io ho cominciato da lì, e poi sono storie che vengono poi citate indirettamente, per esempio la storia del clown che diventa, sì, Otto Primo, è proprio riportata nelle memorie di un diplomatico austro-ungarico, che ne fa un cenno breve, però diciamo è stata una conferma, perché molti hanno dubitato di questa storia, hanno pensato che fosse così un racconto divertente, ma insomma un clown di circo che riesce a farsi incoronare. E invece c'è questo console generale austro-ungarico che racconta che lui a questa cerimonia dell'incoronazione, esatto, non andò perché aveva sospettato che ci fosse qualcosa che non andava, aveva chiesto istruzioni alla sua capitale, mentre altri colleghi non avevano avuto la stessa prudenza e quindi avevano assistito a questa incredibile incoronazione. Di tutte le storie che ha raccontato, e sono tante quelle che si possono ritrovare qui in questa raccolta, qual è stata la più piacevole o quella sulla quale lei potrebbe spendere magari una parola in più? Ma guarda, è difficile, mi rendo conto. Perché sono, cioè, ognuna ha una sua caratteristica, per esempio, non lo so, anche la storia famosissima, questa di Franca Bagnale, sì, che truffatore abilissimo, poi si mette al servizio dell'FBI per combattere il truffo. Anche questa è una storia molto, molto, non solo molto simpatica, ma anche così che dà un po' il tono della difficoltà poi di credere al 100% ai truffatori. Cioè, questa è una storia, tra l'altro, così, così emblematica, che uno si può chiedere se poi realmente è vero, perché tutto il successo di Abbagnale, il film che fu fatto, no, con sì, De Caprio, esatto, Tom Hanks, sì, si basa sulle sue memorie. Ora, le sue memorie probabilmente racconta fatti veri, ma chissà che non abbia un po' affabulato, come si dice, proprio per dare un tono, come dire, moralistico a tutta la storia. Cioè, è meglio stare dalla parte giusta, perché non solo perché bisogna stare dalla parte giusta perché certo, è previsto dalla normativa, ma perché a Bagnale fece molti più soldi di quanti ne avesse fatti facendo il truffatore. Quindi lui, come consulente di grandi imprese private americane, grandi banche, per combattere i truffatori, è diventato milionario. E al che poi uno si può chiedere se effettivamente queste memorie siano state assolutamente fedeli. Chi lo sa, appunto, avendo a che fare, conoscendo a Bagnale, chi lo sa. Però certamente lui oggi è una grande società di consulenza contro le truffe. Ebbene sì. Non so se George aveva magari una o due domande. Ma aveva già risposto, buonasera, aveva già risposto credo quando ha fatto riferimento appunto alla Polonia e quindi al legame, però c'è qualcosa che mi interessa particolarmente, perché Marilena ha chiesto come si fa a passare poi dalle spie ai truffatori. Io mi corregga se sbaglio, anzi mi dica anche altro, però vedo sia tra le spie che i truffatori, vedo comunque una estrema abilità di fondo. Cioè, noi non possiamo far altro che ammirare le spie che conosciamo da 007 in poi, così come la vicenda raccontata al cinema di Frank Bagnale, e l'unica cosa che ci colpisce, che ci fa rimanere comunque strabiliati è l'abilità di queste persone, sia le spie, ovviamente uno è un romanzo, ed è questo il filo, mi chiedo se sia anche per lei questo il filo conduttore, le cose che unisce. Questo, più come personaggi personaggi molto particolari, più che per la loro abilità nel riuscire nel loro intento, anche perché mi è capitato che alla presentazione di questo libro qualcuno mi abbia detto che il mio libro era pericoloso. Apologia di reato. Sembra un'apologia delle truffe. Poi, siccome questa presentazione del libro avveniva alla presenza di un procuratore della Repubblica a Pescara, e allora, insomma, no, ma lui lo diceva sul serio, un docente universitario, ha detto: questo libro non lo farò leggere a mio figlio che ha 17 anni. È evidente che per quanta simpatia ci possa essere per questi personaggi, è chiaro che è una simpatia molto distaccato, è chiaro che poi si è, come dire, soddisfatti nel constatare che le truffe finiscono quasi sempre molto male, no, per i truffatori, però poi non si tratta di uno studio accademico, di una riflessione filosofica sulla truffa, è un libro divertente, ecco, l'ambizione del libro è quella di divertire, dando però delle informazioni precise su certi avvenimenti anche storici, e come mi è successo nella presentazione del libro, di uno dei libri sulla storia di 007, che spesso mi chiedevano, dice, ma lei da quanto tempo è nei servizi segreti? io non so nei servizi, racconto delle storie, perché così, in maniera poi abbastanza non superficiale, nel senso che non è che racconto come direste voi nel porto qua, ma lo faccio in maniera anche per i giovani, perché possono leggere, perché la storia dello spionaggio, voglio dire, l'argomento è talmente pesante che è difficile che qualcuno si metta a leggere, a parte, insomma, proprio gli specialisti, si metta a leggere lo spionaggio al tempo degli egiziani, no? Raccontato però in un certo modo, sì, raccontato in un certo modo, in modo anche abbastanza rapido, leggero, anche divertente, e quindi un po' il filo conduttore è un po' questo, di essere letti, di interessare, di divertire, senza, lo dico insomma, sinceramente, senza ambizioni, come dire, non sono studi accademici o sono libri da consumare, insomma, da leggere. No, assolutamente, anche perché poi il messaggio è sempre comunque relativo, quindi un lettore tutto sommato trova ciò che vuol trovare nel libro, molto spesso. Sì, ma lei mi deve rassicurare, cioè lei leggendo il libro non è che ha pensato ad un'apologia della truffa, non è che... No, io ho pensato ad un'apologia della... C'è una distanza da parte anche dell'autore, no? No, allora, io ho pensato ad un'apologia della truffa in film. Questo è stato il pensiero che ho avuto. Ho immaginato un film, magari di 2 ore e mezza, 3 ore, un film di quelli belli che lasciano il segno, raccogliendo un po' i personaggi più significativi che si trovano nei Signori della Truffa. Questo è stato il mio pensiero. Beh, sì. Tra l'altro, qua veramente ho bisogno della sua risposta, ma i truffatori di oggi ce ne sono di meno, sono meno noti, non suscitano più nessun interesse, perché poi, voglio dire, tutto sommato via via nel tempo, da Bagnale in poi, forse ce n'è soltanto uno verso la fine, un altro truffatore. No, appunto, voglio dire, questa non è assolutamente una, come dire, un'enciclopedia della truffa, se no ci volevano 10 volumi. No, le truffe avvengono sempre. Beh, io ho appena citato il più grande truffatore di tutti i tempi, Bernard Madoff, no? Che avrebbe truffato non so quanti miliardi di dollari, se si parla di 60, 65 miliardi di dollari, una cifra poi talmente elevata che uno si chiede, ma dove sono questi soldi? Perché certo, uno lui stesso può averli intascati lui, certo. Però 65 miliardi di dollari sono tanti, no? Cioè, e anche lì ci sono anche molti misteri ancora da scoprire. No, le truffe avvengono, però io ho cercato di non collegarmi troppo all'attualità, perché, l'ho immaginato. Perché poi così ci sono dei problemi, quindi truffe, a parte Madoff che è talmente madornale che sì, mi è sembrato che comunque un cenno bisognasse fare, ma sono tutte truffe storiche, diciamo. In Italia abbiamo avuto la truffatrice Vanna Marchi. Sì, infatti. Che... Beh sì, quella meno abile magari, ma in un prossimo volume, in un seguito un po' più di attualità, il materiale non manca, detto è chiaro. No, io confesso di averlo trovato estremamente piacevole, anche perché ho colto soprattutto il lato geniale di ciascuno di questi truffatori, dell'abilità poi di convincere, di persuadere, di conquistare poi tutto sommato il loro rispettivo pubblico. No, ho trovato squisito. Qualcuno si è guadagnato anche la, come dire, la immortalità letteraria, no? Assolutamente, con il caso sì, di Marcel Proust, sì. E Harry Lemoine che diceva di sapeva riprodurre i diamanti in sì, laboratorio, e così Marcel Proust non se l'è presa troppo, no? Beh, lui è stato abbastanza ironico, sì, da poterci sì, poi scrivere su. Ne ha fatto questo volumetto che ancora oggi è considerato insomma un piccolo capolavoro letterario. Beh, comunque, no, non so, Marilena forse non l'ha rassicurata, la rassicuro io, siamo molto lontani dall'apologia, molto lontani. Assolutamente no. Vabbè, mi rassicuro. No, ma non è neanche possibile immaginarlo, io pensavo che ce li asse questo professore, se non mi dice che era serio comincio a dubitare no, di virtù del professore. Il procuratore ha capito, insomma, ha detto che... Ha capito poi la parte no, di gioco. Mi ha detto, non faccio leggere questo libro a mio figlio che ha 17 anni, ho detto, ma guardi, insomma, faccio quello che vuole, ma... Non è un libro pericoloso, anzi, è al contrario. No, anche perché una cosa va detta, cioè se anche la truffa, come dice lei, l'ha detto, ma forse non si deve neanche dirlo, neanche questa appendice qui, ma spesso le truffe vanno a finire male. Non sappiamo, cioè questi signori della truffa, questa è la cima, questa è la vetta dell'enorme quantità di truffatori. Questa è la perfezione. E una volta ogni tanto... Ma... Esatto, è una percentuale minima. Quindi bisogna avere una grande coraggio e essere pronti ad andare in galera subito. Ecco, questo fa. Ma poi i truffatori hanno successo spesso perché si basano anche sulle cattive intenzioni del truffato. Ah, cioè certo. La truffa perfetta è quando e il truffato che voleva truffare. Certo. Perché a quel punto nessuno dice più niente, perché chi denuncia chi? E quindi c'è anche questo da dire, no? C'è questa forse tendenza, di nostra tendenza ad essere truffati per vari motivi, però a volte c'è anche questo, no? Come... Assolutamente, sì. C'era un bel film che si chiamava Pacco contro Pacco e Paccotto, ecco, visto? Noi allora, per salutarci, e senza voler, diciamo, privilegiare nessuno degli illustri truffatori, abbiamo scelto un brano per i nostri amici ascoltatori, che è l'ultimo, Un vero signore della truffa. D'altronde lo stesso signore della truffa non ha lasciato nessuna generalità, quindi no. qualora dovessero rintracciarci, noi stessi diremo: non ne sappiamo nulla, sappiamo solo che qualcosa andiamo sul sicuro. Chi dovesse ascoltarci, quindi un vero signore della truffa, nel febbraio del 1964 un elegante Rolls Royce si ferma davanti ad una gioielleria, vabbè, all'entrata di una delle gioiellerie di più in vista di Parigi, a Piazza Vendôme. Ne scende un uomo di bell'aspetto, dall'aria giovanile, accuratamente abbigliato, sicuro di sé. Però sarà George poi a leggere, io introduco così che poi possiamo cogliere la parte un po' più simpatica. Chi sarà? Un personaggio certo importante, sicuramente molto facoltoso. L'autista, vestito di un impeccabile uniforme, l'accompagna con premura all'ingresso della bijouterie, dove il proprietario è già pronto ad accogliere rispettosamente un cliente suscettibile all'evidenza di diventare un eccellente compratore. Dopo i tradizionali convenevoli, l'uomo della Rolls Royce dice che ha intenzione di fare una sorpresa alla moglie e offrendole un gioiello significativo, di buon gusto e adatto all'evento. Quindi qui saltiamo ancora un po' di paragrafi, altrimenti non ci riusciamo. Ebbene, il nostro gioielliere parigino offre, nemmeno a dirlo, il gioiello, il fiore all'occhiello della Maison. E praticamente sono delle preziosissime creazioni, di cui Giorgio continuerà ora la lettura, perché poi è Giorgio il nostro bravissimo. Siamo, offriva una margherita. Offriva una margherita, sì. Guarda che era una margherita. Una margherita, finemente intarsiata. Dal modico valore di $200,000. 200.000 franchi francesi. Ah, siamo Place Vendôme. Siamo a Place Vendôme. Sì. E quindi quando il nostro gioielliere chiede 200.000 franchi, ovviamente il proprietario della Rolls Royce non batte ciglio, non negozia, non ne ha l'abitudine e verosimilmente non ne ha bisogno. Dice solo di avere un piccolo problema, che infatti per ragioni personali aveva deciso di effettuare il pagamento in contanti. Ma sfortunatamente nella 24 ore c'erano solo 100.000 franchi, perché era convinto di non dover spendere di più. Quindi si vede allora costretto a comprare un altro oggetto, non certo una margherita a 200.000. A meno che, sì, c'è una soluzione, a meno che non possa inviare il suo autista nella propria residenza con una lettera per la moglie, chiedendole di prelevare dalla cassaforte di famiglia i 100.000 franchi mancanti. Però il gioielliere non c'è difficoltà alcuna, ci mancherebbe, un affare del genere non si fa mica scappare dalle mani. E quindi che rischia? Il gioiello non uscirà dal negozio finché non sarà stata pagata tutta la somma. E quindi da carta e pena al misterioso personaggio, il quale però ha un problema, ha la mano destra immobilizzata da un gesso. E quindi chiede al gioielliere se per caso, se per favore può scrivere lui la moglie, e quindi il gioielliere di buona lena impugna la penna e scrive: mia cara, sotto dettatura, potresti consegnare all'autista una busta contenente 100.000 franchi? Non fagli delle domande, si tratta di una sorpresa che ho in mente per te e credo ti piacerà molto. Baci, Georges. Il gioielliere scrive: un po' si meraviglia anche che questo strano personaggio abbia il proprio stesso nome, però insomma attende. Dopo un po' l'autista arriva con un bustone contenente effettivamente 100.000 franchi. Felice del risultato raggiunto, il gioielliere consegna, non nascondendo, anzi facendo fatica a nascondere, a celare la propria soddisfazione, consegna la margherita e se ne torna a casa dalla moglie con l'idea di festeggiare il buon esito della vendita. Ma trova sua moglie che, molto intrigata, anzi direi un po' eccitata, gli chiede di che sorpresa si tratti, che cosa abbia in mente, come si è venuta l'idea. E lui la guarda: quale sorpresa, quale idea, di cosa parli? Lei lo guardi e fa: ma come? La lettera, adesso nella cassaforte non ci sono più i 100.000 franchi di prima. In quel momento il gioielliere impallidisce, è un mancamento. Ha immediatamente capito di essere stato vittima di una truffa. Quale truffa? Beh, il cliente, il famoso cliente, sapeva che il gioielliere si chiamava George, che aveva una moglie, una cassaforte in casa, e ha fatto scrivere al gioielliere una lettera che la moglie ha letto, e poi al gioielliere la moglie ha detto: ma che avrei dovuto fare di fronte a un biglietto scritto e firmato con la tua calligrafia, marito mio? E voilà, e con questo moderno Arsenio Lupin è riuscito a prendere il gioiello con 100.000 franchi. Certo, ha pagato almeno 100.000 franchi invece di 200.000, però è riuscito a fare questa bella truffa. E di questo, truffatore non sono rimaste, a quanto pare, tracce. Non abbiamo nessuna traccia del truffatore. Quindi, insomma. Ora però, adesso non sappiamo se questo è il pacco o il contropacco. Voglio dire, il truffatore iniziale era il gioielliere che chiedeva 200.000 franchi per qualcosa che ne valeva di meno, o il secondo. Rimane in sospesa questo è un mistero, mi pare. O sbaglio? La storia è carina proprio perché finisce con un punto interrogativo. Perché avrà fatto questa truffa, esatto. Appunto, perché potrebbe anche addirittura averci rimesso, perché se sì. Lui ha speso 100.000 franchi di suoi, ha avuto una margherita che ne valeva 200.000, però rivendendola ai ricettatori avrebbe intascato sì e no la metà di quello che valeva, quindi sì. Considerando pure le spese certo. Per la messa in scena magari ci avrà rimesso, e quindi chissà perché l'ha fatto per far piacere a una donna che amava e che voleva proprio quel gioiello per il quale non aveva abbastanza soldi, chi lo sa. Oppure sarà stato un signore della truffa che amava appunto la truffa elegante, il beau geste della truffa, chi lo sa. È sparito nel nulla e non se ne è più saputo, più non si è più avuto notizia. Ecco, questo mi piace tanto. Il suo nome non è stato mai conosciuto. Ha un aspetto romantico, sì. Una venatura romantica. Ecco, forse questo non la farei leggere a un ragazzo di 17 anni. Pensiamo che sia stato per motivi romantici. A me piace pensarlo così. Consoliamoci così, pensiamo a questo gesto. Ambasciatore, noi ci salutiamo. Non so se ha magari qualche saluto ancora da indirizzare. Ringraziare voi per questa piacevole conversazione, per l'intervista, farvi complimenti per la vostra radio. Grazie. E sperare che il mio libro venga letto anche dagli amici italiani di Bruxelles. E noi pure ce lo auguriamo. I Signori della Truffa, Domenico Vecchioni, editoriale Olimpia, è disponibile in tutte le più importanti librerie in Italia. E veramente, insomma, ci auguriamo di riparlare, chissà, prepariamo una puntata sulle spie. Prossimamente. Siamo noi ancora a ringraziarla della squisita e piacevole chiacchierata, e ancora le auguriamo un'ottima serata. Grazie tante a voi. A presto, grazie. Grazie. Cos'è? Ma che? 3, 2, 1. Librando. Buonasera, ben ritrovati. Il tempo è tiranno, grazie a questa bellissima puntata di Librangolo. Ho ancora un sacco di cose da dire. Acci picchia, non si può mica dire soltanto bentornati, scusa. Era sufficiente. Perché bentornati vuole anche dire che uno è stato da qualche parte. Ah sì? Dove sei stata, Fiordaliso? Ecco, è una buona raccontaci domanda. Raccontaci un po'. Sono stata in Australia, immagina. Oh là là, a zompare con i canguri, ma non soltanto a zompare con i canguri, perché a me piace un sacco leggere dei libri del posto, prima per preparare il viaggio e dopo per proprio addentrarmi nello spirito di un posto. E quindi, per esempio, in questo caso, per farmi un'idea generale, per farmi aiutare per progettare il viaggio, ho letto In un paese bruciato dal sole di Bill Bryson. Il titolo originale è Down Under, il che mi piace molto di più perché esprime il fatto che l'Australia è proprio l'altro lato del mondo, sotto i nostri piedi, con gente che cammina con la testa in giù come uno si immagina da bambino. Ah sì, com'è davvero? E non so se conoscete Bill Bryson, perché è più conosciuto nella parte anglosassone del mondo. La sua scrittura è sempre un po' comica, anche se è sempre basata su un misto di esperienze personali e letture proprio serie. Cioè anche lui potrebbe fare una bibliografia lunghissima e a volte anche proprio tosta dietro i suoi libri. Qua sono gli aneddoti che vogliono essere condivisi mentre uno ride fra sé. A chi verrebbe in mente di contare il numero di volte che l'Australia era menzionata nei giornali americani e fare comparazioni del genere? Per gli americani l'Australia era più o meno importante quanto il gelato. Cioè, ma questo è soltanto il primo assaggio, non è semplicemente una serie di aneddoti, è anche un libro che ti fa realizzare le distanze, ma anche il piacere di fare una road trip in questo bel vasto continente, fondamentalmente. Hai fatto un road trip? Sì. Oh. Era anche di qua che sapevo che senza visitare l'Outback non sarei stata in Australia. Mi ha informato sui tanti animali velenosi e le meduse che sembrano dei preservativi innocui, ma anche il libro che mi ha convinto che se Bill Bryson aveva sopravvissuto lo farò anch'io. Comunque è un buffo libro, ve lo raccomando, specialmente se andate in Australia. Però effettivamente visitando l'Outback, cioè l'immenso territorio interno dell'Australia, rosso, semidesertico, scandito di cespugli e rari alberi bassi, cresciuti con fatica, e questo è anche il territorio che è marcato dalla presenza degli aborigeni, dove ancora alcune tribù continuano a vivere secondo le loro tradizioni, interrotte dall'arrivo dei colonizzatori. Per capire un po' di più di che cosa si tratta, ho letto per esempio Le vie dei canti di Bruce Chatwin, a proposito di premio Chatwin che ci sta tanto al cuore, come sapete. Bellissimo libro che in parte descrive il viaggio di Chatwin nell'Outback per capire come le vie dei canti degli aborigeni funzionavano. E che cosa sono? Sono delle storie sui viaggi degli antenati, cioè animali, totem, un po' fra umani e animali, che questi antenati avevano fatto su questo immenso continente, che cantati diventano quasi una mappa. Infatti, in base a questi canti, un aborigeno riusciva ad attraversare l'intero scottante interno del paese perché marcava i pozzi d'acqua, i posti dove si poteva trovare da mangiare, eccetera, eccetera. E tutto questo scandito al ritmo delle canzoni era proprio immancabile. E ricordiamoci che attraversare l'Australia richiede camminare anche 3.000 chilometri. Oltre a dare affascinanti dettagli sulle tradizioni complesse degli aborigeni, questo libro è molto di più. È una riflessione sul nomadismo dell'uomo, sulla sua evoluzione. Tutti pensieri interessanti che spingono a pensarci e continuare a discuterli. Ma proprio su questa scia, ancora sugli aborigeni, ho anche letto recentemente un altro libro che invece è scritto proprio da una donna aborigena che si chiama Doris Pilkington, cioè è il suo nome inglese perché ha anche un nome aborigeno, che è eccezionalmente pubblicato sulla prima pagina del libro. Si chiama Nuri Garimara, se mi ricordo bene, che è abbastanza insolito perché gli aborigeni pensano che se tu sai il loro nome hai potere su di loro, quindi in teoria tutti usano il loro nome finto inglese, diciamo. E questa sua storia non è altro che la storia di sua nonna, che ha fatto un viaggio a piedi di 1600 chilometri per scappare da una istituzione dei colonizzatori, Perché non so se sapete o non sapete, c'era una cosiddetta generazione persa in Australia di aborigeni. Questi erano generalmente dei bambini a metà aborigeni che i colonizzatori volevano vincere per la società cosiddetta civilizzata, e quindi li esportavano dalle loro famiglie anche con la forza e li isolavano in questi territori. Allora la nonna di Doris Pilkington ha avuto la stessa sorte, però si ribellò e si avviò insieme alle sue due sorelle, ha fatto 1600 chilometri tutte da sole e anche perseguitati dalle autorità, ed è arrivata fino a casa. È una storia straordinaria, ma allo stesso tempo è raccontata con con un misto fra fattualità, non so se si dice in italiano, fattualità e sentimento, con un sacco di cose che non vengono dette, non vengono raccontate, che, come abbiamo sperimentato, succede veramente in Australia. Cioè, gli aborigeni non piace comunicare i loro, diciamo, segreti, i loro riti o la loro vita interna, e questo si sente anche in questo libro, che sicuramente la rende più provera, ma dall'altro lato la rende anche più veritiera. Quindi anche questo è un libro che vi posso raccomandare, e con questo le nostre avventure australiane per adesso hanno fine. Per adesso. Aspettiamo il seguito, no? La settimana prossima. Allora, noi siamo alla fine, vi ringraziamo, ringrazio Daniele in regia, ringrazio George e Fiordaliso, e vi saluto ricordando che il 1 febbraio alle ore 19 presso la libreria Pioli della Scala, si sta pensando a tutti gli scalini da... Va bene, comunque lunedì i pupari saranno l'oggetto di una chiacchierata piacevole con Walter Cerfeda, e i due libri sono entrambi editi da Albatros, quindi tutti quanti siete invitati qualora voleste, lunedì 1 febbraio 20:10 ore 19 Piola Libri 66-68 Rue Franklin 1000 Bruxelles. Cerfeda, di cui già parlettimo. Una volta, bravo, l'11 novembre, volta, sì. Sì, è stato nostro ospite al telefono, con lui abbiamo già avuto modo di parlare di lunedì. E io lo intervistetti addirittura. Bravissimo, in effetti, è proprio facendo così. Facendo fatica a fare questi passati remoti. Tutti questi passati remoti tra i pioli e le piole. Infatti ho fatto un macello. Si fa confusione. Cari amiche e cari amici, saluto nuovamente tutti, vi ringrazio del paziente ascolto e ci vediamo. Un abbraccio a Meridì. Sentiamo. Un grande abbraccio a Meridì. Grazie. A martedì.